Steve a mis au point différents réservoirs. La finestra sul cortile di Riccardo Chiaberge. Bentornati alla finestra sul cortile. E ormai ci siamo, martedì l'America elegge il successore di George W. Bush e il mondo sta col fiato sospeso in attesa dei risultati. Ma intanto il presidente uscente è già diventato un personaggio del cinema. Esce in questi giorni, sugli schermi degli States, il film di Oliver Stone, W, protagonista appunto Bush Jr. E subito scoppiano le discussioni, perché la figura del presidente non è così negativa come ci si sarebbe potuti aspettare, certo lontanissima da quella del cattivo cowboy dipinta da Michael Moore. Come mai il cinema ha la tendenza a umanizzare o a riabilitare, se non addirittura a santificare, personaggi controversi? Di questo parleremo nella nostra puntata della Finestra sul Cortile, ma intanto ascoltiamo cosa prevede il sommario di oggi. America, il cinema, ti fa bello. Da Bush a Nixon, ecco come anche i politici più controversi finiscono per apparire simpatici sul grande schermo. Germania, ricco ma infelice. Esce una nuova biografia di August Thyssen, il grande barone dell'acciaio tedesco. Inghilterra, non vi sentite troppo bene? Allora non c'è tempo da perdere. Son ben mille i capolavori dell'arte mondiale di tutti i secoli da vedere prima di passare a miglior vita. Spagna, ancora non si sa chi vincerà la corsa alla Casa Bianca, ma Obama si è già aggiudicato il ritratto più grande. La sua faccia ricopre 10.000 metri quadrati di spiaggia a Barcellona. Egitto, tra moglie e marito, vince l'Islam. In caso di separazione, il genitore di fede musulmana è favorito nella custodia dei figli. Israele, 790.000 anni fa, la scoperta del fuoco. Lo ha stabilito un gruppo di ricercatori israeliani. Da quel giorno, la vita dei nostri antenati non è stata più la stessa. In un articolo sul Times si domanda provocatoriamente se il regista Oliver Stone non si sia per caso innamorato di Bush, facendone un eroe. E questo perché il suo ultimo film, W, evidentemente Oliver Stone ha una passione per gli acronimi, perché un altro film che lo ha reso famoso è stato JFK, dedicato appunto allo scomparso presidente Kennedy, e notoriamente un film complottista che dava una versione appunto cospiratoria del suo assassinio. E invece in questo film, come scrive Kevin Maher sul Times, in realtà Oliver Stone ha deluso quelli che lo conoscono come un provocatore del cinema, perché presenta sostanzialmente Bush con un tratto più umano e quasi simpatetico. Scrive Maher che a metà del film di Oliver Stone uno si accorge che questo non è una stroncatura, in realtà non è polemico, non è un attacco satirico alla presidenza forse più discussa degli ultimi anni in America. In realtà viene presentato Bush il sognatore, Bush l'incantatore, Bush il ragazzo delle confraternite studentesche, Bush il figlio tormentato. Il suo rapporto difficile con Bush Senior viene ritratto molto bene. Bush il marito, Bush il presidente assediato. La sua amministrazione viene rappresentata come una specie di nido di vipere e alla fine, insomma, Bush quasi come un uomo solitario e isolato dal suo stesso paese, quindi molto lontano da quell'immagine del cattivo dei cartoni animati, quella specie di caricatura del cowboy, del texano guerrafondaio che eravamo abituati a pensare, che avevamo visto anche per esempio nel film di Michael Moore. La verità, scrive ancora il giornalista del Times, è che quest'ultima ondata di film dedicati alla biografia di importanti

ha deciso di lanciare tra i suoi lettori una specie di sfida. Quali sono i maggiori capolavori della storia dell'arte di tutti i tempi e di tutti i paesi? Ha deciso di selezionarne 1000 e di proporli appunto ai suoi lettori e vedere insomma se sono d'accordo. Ha messo insieme insomma l'equipe dei writers di arte del giornale e ha selezionato questo elenco, quali sono le opere maggiori, quali sono i maggiori artisti nella storia dell'umanità. Ovviamente le scelte sono molto soggettive, lo ammette lo stesso Jonathan Jones, sono legate più al sentimento, alla passione, alle scelte individuali che non a dei criteri oggettivi di valore, anche perché è molto difficile adottare questo tipo di criteri. Per esempio, insomma, nella scelta c'è, non so, la Madonna Sistina di Raffaello, ma ci sono anche dei graffiti dell'arte aborigena australiana, c'è la Nave Negriera di Turner, ci sono le Las Meninas di Velázquez, ma c'è anche per esempio il famoso cimitero degli eroi del Vietnam, c'è l'onda di Hokusai e c'è perfino la copertina del famoso disco dei Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, che tutti noi di una certa età ricordiamo come uno dei dischi più famosi dei Fab Four. Ma ha senso fare una classifica dei quadri che uno deve assolutamente vedere durante la sua vita e che non si può perdere prima di morire? E che senso hanno queste scelte? E soprattutto le scelte che ha fatto il Guardian sono fondate, sono sensate o sono criticabili? E per discutere di questi temi abbiamo al telefono un ospite, Flavio Caroli, che salutiamo. Buongiorno Caroli. Buongiorno a voi. Grazie, storico dell'arte, critico d'arte, scrittore. Flavio Caroli, cosa ne dice di questa iniziativa del Guardian? Ma sa chi vuole, prima di tutto è un gioco ed è evidente. Lui dice che sono scelte personali e la verità è che non sono poi tanto personali, perché riflettono molto, devo dire con qualche correttezza ma anche con una certa banalità spesso, una certa logica anglosassone, insomma le scelte che tradizionalmente ha fatto il mondo anglosassone. E poi secondo me il discorso andrebbe diviso piuttosto nettamente, devo dire, fra arte antica e arte contemporanea. Ecco, perché questo? Perché nell'antico, appunto, il selezionatore, diciamo così, sceglie le opere accettate dal mondo anglosassone, ma anche con qualche grave lacuna. Faccio l'esempio, non c'è Guido Reni. L'avesse fatto un critico francese, Guido Reni ci sarebbe stato. Quindi Guido Reni, che è uno dei padri del classicismo nel 600. C'è ben poco, per esempio, Lorenzo Lotto, che è l'anima segreta del Rinascimento italiano, in qualche modo la grande alternativa a Tiziano, forse anche più moderno di Tiziano. Ma poi non c'è tutta quella linea, diciamo, espressionistica della cultura italiana che è fondamentale. Vedi per esempio Aspertini, del quale è aperta in questi giorni una mostra a Bologna. Vedi una pittrice alle origini della natura morta come Fede Galizia. Insomma, ci sono sicuramente delle falle in tal senso, ma la cosa si fa più grave per l'arte contemporanea, perché lì dove i valori sono relativamente stabilizzati, proprio ci sono scelte, ecco, di quel certo mondo. Io posso benissimo morire senza aver visto Tacita Dean o Judy Chicago o Robert Frank, insomma figure oggettivamente relativamente minori, ma insomma invece qui vedo che mancano Alberto Burri, che è sicuramente uno dei padri dell'informale, non c'è dubbio, diciamo così, nel mondo, e fondamentale per Rauschenberg, per Bob Rauschenberg, che poi è sugli scudi, insomma, della pittura internazionale. Non c'è Jannis Kunellis. Jannis Kunellis, a partire dai suoi esordi nell'arte povera e poi per 40 anni avanti, è sicuramente uno dei fondatori di quel certo mondo, insomma, di quella certa questo rapporto con la natura e con un'arte che ha influenzato il mondo intero. Sì. Il mondo intero. Ecco, ma un'altra cosa che io notavo è che molte di queste opere non corriamo il rischio di perdercele, perché ce le fanno vedere e ce le propinano in tutte le salse, le banalizzano, sono diventate dei cartelloni o degli spot pubblicitari. Pensiamo, non so, l'onda di Hokusai, la ragazza con l'orecchino di perla, la primavera di Botticelli. Quanto, cioè, non c'è il pericolo che non le vediamo prima di morire, no? Certo, cioè, semmai milioni di volte, non c'è alcun dubbio. E questa è appunto la banalità, diciamo, sì, delle scelte di cui parlavamo prima. Esattamente, sì. Ecco, ma questo, diciamo, consumismo dell'arte, ecco, non rischia proprio di impedirci poi, inondandoci, facendoci fare una specie di scorpacciata di visione, di ottunderci anche la facoltà critica, la facoltà di apprezzare poi la bellezza? Sì, sì, assolutamente, anche perché vengono propinate sempre quelle opere, e invece la storia dell'arte è infinitamente grande. Infatti si vede che ogni qualvolta viene proposto un grande artista non conosciuto, insomma, le riscoperte, i nuovi amori arrivano continuamente. Insomma, questo è il rischio della banalità e del consumo, il che, vabbè, insomma, il consumo possiamo anche, fra virgolette, accettarlo, ma a patto che si rinnovi continuamente e continuamente proponga valori, valori critici, e dunque una nuova visione della storia dell'arte. Ecco, molte opere anche in Italia sono invisibili perché stanno nei magazzini dei musei. Il nuovo soprintendente di Roma, Umberto Broccoli, propone di darle in affitto ai privati. Ecco, ma non sarebbe meglio che l'arte si godesse nei luoghi deputati? Cioè, invece che... No, su questo no, assolutamente non c'è dubbio. E poi bisogna stare molto attenti, perché il gusto, e appunto quel che dicevamo prima, il rinnovo, la riscoperta e il rinnovo della storia dell'arte è continuo. Cioè, se fossero stati venduti o dati in locazione opere metà nell'anno 1900, sarebbero stati dati via o venduti tutti Caravaggio, perché Caravaggio a quel punto era nulla. C'è voluto un ingente lavoro di riscoperta nei primi anni del Novecento per farne poi una star. Certo. Come è diventato oggi, capisci? Il gusto cambia continuamente, e dunque attentissimi a fare questo, per esempio attentissimi a non tenere in buon ordine i depositi di magazzini dei musei, perché quello è proprio il materiale sul quale continuamente si riscrive la storia dell'uomo. Non c'è dubbio. E poi comunque, insomma, c'è la tendenza oggi a vedere nell'arte, nella cultura, dei valori economici sfruttabili sul piano monetario come valore d'uso e non come valori in sé. Assolutamente, beh, questa poi è la colpa, il rischio antropologico della civiltà nella quale noi oggi stiamo vivendo, e capisce, quindi la lotta continua, perché insomma nulla, voglio dire, nulla contro il denaro a ciò che serva appunto alla conservazione dei valori dell'umanità. Adesso il Louvre ha dato in affitto per una montagna di denaro alcuni, molti suoi quadri ad Abu Dhabi, nulla in teoria contro questo, ma a patto appunto che i valori vengano continuamente preservati e, ripeto la frase, si continui continuamente a riscrivere la storia dell'umanità. Ecco. Ecco, se lei dovesse andare su un'isola deserta perché il mondo è sommerso e potesse salvare soltanto un'opera, mettiamo di Brera, ecco, che cosa le verrebbe in mente? Beh, di Brera, è molto dura, ma insomma almeno due mi vengono in mente immediatamente: Piero della Francesca, la grande palla con certo. L'uovo al centro, e poi però c'è la cena in Emmaus di Caravaggio, che fa seguito alla cena in Emmaus di Caravaggio che è a Londra, ma è ancora più bella perché è più tarda, più misteriosa, e ricrea proprio questo clima fantasmatico, ecco, diciamo, della sera in cui Gesù Cristo ritorna sul mondo. Ecco. Quindi Caravaggio e Piero della Francesca nell'Isola dei Famosi. Sì, non è escluso poi che mi porterei anche il disco dei Beatles, ecco, naturale, di cui parlavamo prima, poiché lo possiedo ancora in prima edizione, ecco, da quei tempi. Fortunato. Molto bene, grazie professor Caroli, e a presto. Grazie a lei. Arrivederci. E adesso ci spostiamo in Germania per parlare di un mito della storia dell'industria tedesca, August Thyssen, nato nel 1842 e morto nel 1926, che ha legato il suo nome alla grande industria dell'acciaio tedesca. Un uomo ricco ma infelice, secondo lo storico Jörg Leschensky, che ha pubblicato proprio ora in Germania una sua corposa biografia. E dal momento in cui nel 1867, aveva soltanto 24 anni, fondò con il cognato una piccola fabbrica di trattamento della ghisa, la sua fortuna crebbe rapida e costante fino a renderlo uno degli uomini più ricchi e influenti del Reich guglielmino. Per quanto riguarda invece la sua vita privata, furono soprattutto gli insuccessi a segnarlo e affliggerlo. Il matrimonio con la moglie Hedwig fallì per l'incapacità della signora Thyssen di rendersi conto degli obblighi che la sua condizione sociale le imponeva. Solo e con quattro figli a cui badare, August non poté però nemmeno contare sull'aiuto dei familiari. Il fratello August Junior, per tutta la vita, nutrì infatti verso di lui un'invidia di ferro, anzi d'acciaio. E adesso ci spostiamo in Medio Oriente. Sul giornale Al-Watan Daily del Kuwait leggiamo che a Gerusalemme una equipe di archeologi dell'Università di Gerusalemme ha trovato sul fiume Giordano, in un sito archeologico, delle tracce di come gli uomini di 790.000 anni fa arrivarono alla scoperta del fuoco, e questa scoperta permise proprio all'umanità di spostarsi, di incominciare a viaggiare, a migrare e a conquistare nuove terre. Forse gli archeologi del futuro troveranno i resti dei nostri mega aeroporti e dei villaggi vacanze e potranno stabilire con esattezza la data in cui fu inventato il low cost. Per oggi è tutto. Ringrazio Daniele Casagrande in redazione, Carmelo Lauricella in regia e tutti voi per l'ascolto. Riccardo Chiaberge vi dà appuntamento a sabato prossimo, stessa ora. Buon weekend a tutti.